Grazie Francesco e un saluto a Susanna Schimperna che è con noi al telefono. Ciao a tutti. Ciao Susanna. È uscito un libro di Susanna Schimperna dal titolo Il mio volo magico con Claudio Rocchi, edizioni Campi di Carta. È un libro che racconta in forma epistolare, possiamo dire, il tuo rapporto con Claudio Rocchi, è così? Sì, in forma epistolare perché... Un poema epistolare l'hanno definito. Sì, ci scrivevamo attraverso mail e abbiamo continuato a scrivere delle mail per fare, fabbricare, costruire questa cosa così strana, un po' esoterica, molto antiquata, che si chiama poema. Ed esoterica, poi chi lo leggerà capirà perché antiquata è sicuro, perché vorrei vedere chi oggi scrive dei poemi, attraverso le mail, perché Claudio viveva in Sardegna quando io l'ho conosciuto, mentre io vivevo a Roma. E poi comunque a volte è capitato che fossimo nella stessa casa, ma ormai avevamo cominciato così e quindi continuavamo a scrivere il poema attraverso le mail. Claudio desiderava fortissimamente che questo poema fosse finito, sì. È vero? Sì, Susanna? Sì, sì. Lui mi incalzava veramente e si inquietava molto ed era molto deluso dal fatto che io a un certo punto avevo rallentato il ritmo. Noi abbiamo scritto moltissimo all'inizio, quando ancora non ci eravamo mai incontrati, tanto che nello spazio di un mese e mezzo avevamo fatto la metà del poema, i primi 6 capitoli. E gli altri 6 li abbiamo fatti invece da giugno fino a marzo, per cui insomma ci è voluto... Ma d'altra parte, o vivi o scrivi, non è facilissimo continuare a scrivere quando poi con questa persona ti vedi sempre, parli al telefono quando non ti vedi, praticamente sempre, noi eravamo insieme in ogni secondo, o perché eravamo insieme fisicamente, o perché eravamo al telefono in un modo ridicolo, da ragazzini, io andavo a lavorare e tutti quanti, zitti, Susanna è al telefono, zitti, vediamo se riesce un attimo a scrivere una cosa, il truccatore, il parrucchiere, perché facevo un programma in televisione, silenzio, non parliamo forte, un po' mi prendevano in giro, un po' c'era questo clima festoso di entusiasmo, perché comunque in questa storia c'era e si sentiva non solo un grande spessore, ma anche credo una grande speranza per tutti che certe cose potessero accadere ed essere vissute senza alcun pudore stupido, sciocco, in una maniera anche così piena appunto di entusiasmo, che è una parola che è l'unica che credo giusta. E quindi alla fine 12 capitoli, io una volta invece ho incalzato Claudio, e lo dichiaro perché ad ogni capitolo recentemente ho aggiunto un'introduzione pensando, e credo di non aver sbagliato, che altrimenti si capisse poco, un pochino contestualizzare anche per chi è rocchiano, per chi ama Claudio Rocchi, per chi conosce il suo modo di scrivere, per chi conosce il suo mondo e magari conosce anche la nostra storia, però è necessario spiegare qualcosa in più, a che punto eravamo, a cosa ci riferiamo in certi momenti. E in una mia introduzione a un certo capitolo io dico qui, stranamente, bizzarramente, sono io che dico a Claudio di scrivere, ma poi c'era stato un momento in cui invece non mi ricordo neanche perché lui sembrava, ma è stato un momento proprio di 2 giorni, una cosa assolutamente minima. Lui era pazzo di questo poema, dall'inizio, dalle prime righe che ci siamo scritti. Lo considerava la cosa più bella e completa che avesse mai scritto, ecco, questa è la verità. Claudio era un musicista straordinario, sì. Uno dei padri del prog italiano, e tu l'hai conosciuto grazie alla radio, anche noi. Grazie allo Spazio Rocchi, per voi giovani, 1974, sì, sì. Però tu hai detto, sì. Non mi piaceva lo Spazio Rocchi, me piaceva moltissimo, a noi. Sai proprio tutto. Sì, perché Rocchi l'abbiamo sentito. I rocchiani tante volte. Sanno tutto. Siamo, di Rocchi. I rocchiani sono una cosa forte e una cosa da ricordare. Noi li abbiamo intervistato anni fa, Claudio Rocchi. Lo so. Dalla Sardegna, appunto. Dalla C'ero Sardegna. Anch'io, sì. Ed era un fiume in piena. Aveva una cultura vastissima, una cosa meravigliosa, che ricordiamo ancora adesso. Sì, io mi ricordo quella cosa lì perché avevo detto, senti, ma se vuoi facciamo una cosa anche con Facebook. Io lancio quello che tu stai dicendo, se qualcuno ti vuole fare domande tu rispondi nel frattempo alle domande attraverso la radio ed è venuta benissimo, ma sai che ci hanno ascoltato, abbiamo avuto dei feedback dall'America e anche dall'Europa dell'Est. Sì, è vero, me lo diceva Claudio, sì. Anche dal Brasile, più spesso e volentieri, sì, dal Brasile, no? Anche dall'Australia. America, intendo America del, sì, Nord, certo. E del Sud. Sì. E poi mi ha raccontato delle cose meravigliose, qualche aneddoto nei suoi primi dischi, mi raccontava, sì, che lui, vicini, beh, tu lo, sì, sai, sì, sicuramente, i primi soldi li ha presi traducendo un pezzo di Creedence, Lodi. Sì. E sì, in viaggio il primo disco l'ha costruito grazie a questi soldi, è così, vero Susanna? Sì, lui ha avuto una prima audizione, perché già suonava da piccoletto, a 14 anni, in un piccolo gruppo, poi dopo sono arrivati gli Stormy Six, poi si è messo da solo, ha avuto questa prima audizione e lì lui sapeva già l'inglese abbastanza bene. Gli hanno chiesto, vedendo la sua enorme facilità di scrittura, poi scriveva da sempre in un modo particolare, io ti faccio una parentesi, sì, dimmi, che non ti stupirà essendo tu rocchiano. Io ho le cose che Claudio scriveva a 8 anni, a 10 anni, a 12 anni e ti assicuro, era incredibile, era come se avessi una sorta di parola, di scienza e di parola infuse. Era veramente incredibile. Sì, sì, e questa è una cosa che notavi in lui, sì, anche quando parlava, no? Aveva una conoscenza enorme. Capivi bene neanche che linguaggio stesse parlando, perché ti incantava. Poi potevi detestare il suo modo di parlare, ma sicuramente non ti lasciava indifferente. Quindi, vedendo come lui scriveva, che personaggio fosse, l'hanno messo immediatamente. Una volta succedevano queste cose. E che peccato che l'industria discografica, con tutte le magagne che ha avuto e tutte le colpe, per carità, però abbia chiuso queste porte, perché se tu riuscivi ad essere convincente, ti prendevano sotto la loro ala protettiva, ti facevano un contratto, ti davano dei soldi e ti facevano fare dei lavori, che erano anche dei mestieri attraverso i quali tu avevi la soddisfazione di imparare, di vedere che qualcosa di risultato c'era e guadagnavi pure, nel frattempo continuavi con la tua musica in attesa di essere pubblicato, perché eri maturo per quello, con un vero grande produttore che capiva di musica, perché all'epoca c'erano questi personaggi. E quindi Creedence, ma anche altre cose. E nel frattempo Claudio però scriveva anche, sì, e moltissimo. Poi gli hanno fatto fare il suo primo disco. Certo. Ritornando al libro, che cosa si scopre? Quante vite si scoprono in questo libro di Claudio Rocchi? Tantissime. Si scoprono tanti lati di Claudio, per carità, anche miei e anche della nostra coppia, della nostra, io guarda, fatico moltissimo, noi non riuscivamo a dire né rapporto né storia né coppia, ci sembrava tutto riduttivo, in questo processo forse alchemico, forse solo immaginato, ma voglio dire, i sentimenti poi sei tu che li vivi, quindi se non li immagini non li puoi neanche vivere, beh, noi non ci sentivamo uno più uno, ci sentivamo davvero una cosa diversa, non potevamo parlare di storia, di relazione, di coppia, perché avremmo messo questa cosa alla pari di altre cose che avevamo avuto tutti e due, non era possibile. Questa era una cosa, e poi leggendo il libro si capisce benissimo, era una cosa straordinaria. Chi ha voluto pubblicarlo? Ah, lui ha da sempre voluto pubblicarlo. Chi ti ha dato una mano dopo la pubblicazione? Poi è successo questo, io non ho mai più pensato a questo poema, nel senso che avevo questa tendenza molto pigra a lasciar fare, a lasciare andare, ma sono così proprio nella vita, se non ho una scadenza precisa, non ho un contratto, me ne fischio. Claudio esattamente era il contrario di me, era una persona di grande intraprendenza, quindi lui aveva sul desk 20 cose diverse, tra cui il poema, non ne perdeva di vista nessuna, io l'avevo perso di vista, ormai era fatto, ci pensava lui, e lui, no guarda, ci devi pensare tu, devi fare un editing, devi fare delle introduzioni, hai promesso che lo facevi, e io ho lasciato perdere per anni. Però sapevo quanto lui ci tenesse. Poi è accaduto che un mio amico, che aveva conosciuto Claudio ed era anche diventato amico di Claudio, da poco tempo ha questa casa editrice particolare che si chiama Campi di Carta, con una formula inventata da lui. Pochissime spese, perché non si tiene un magazzino, non si stampano tot copie sperando di venderle, come fanno ormai tutti gli editori piccoli o grandi, no? No, non si stampa nulla. Si stampa a seconda delle copie ordinate. Le copie ordinate naturalmente dipendono dalla tua forza pubblicitaria. Loro non ne hanno quasi alcuna, ma non importa perché sono stimati, perché io ho un nome, Claudio ho un nome, c'è un passaparola, io ci credo molto, in questo momento in cui sembra che devi soltanto passare attraverso i grandi canali televisivi, radiofonici, i grandi quotidiani e investire chissà che soldi, io credo che per i libri e per i dischi di valore conti oggi il passaparola, e quindi abbiamo cominciato attraverso Facebook, attraverso le nostre amicizie a dire guardate che ora esce questa cosa, e loro sono contenti perché già hanno avuto attraverso IBS, Amazon, perché il libro si compra online, puoi anche ordinarlo in libreria, deve essere una grande libreria, figurati, arriva anche in libreria. Sia in libreria sia online. Sì, sì, si compra anche da campi di carta, quindi loro quando hanno un tot di ordini, neanche tanti voglio dire, ne bastano 10-20, subito si stampano quelle copie, questo ti permette di non avere un magazzino, di non impegnare troppe risorse ed è stato fatto tutto in famiglia perché il mio rapporto con loro è l'unico rapporto che era possibile per produrre questa cosa qui, e quindi Marcello, il mio amico, è venuto per mesi tutte le settimane a casa mia e abbiamo costruito, guarda, abbiamo faticato tanto, però non abbiamo cambiato neanche una parola. C'è stata tutta la fatica di decidere gli accapo, perché noi scrivevamo in text edit, la fatica di decidere le introduzioni che ho dovuto scrivere io, la copertina, è stato laboriosissimo scegliere la copertina insieme all'altro editore Marcello Rodi, Elena Rasmini che ha riguardato più e più volte le bozze, quello che io le mandavo, i PDF, doveva uscire una cosa perfetta. E io ho l'idea, guarda, magari adesso lo apro e trovo un errore, ma io non importa, che siamo siamo riusciti a fare una cosa proprio veramente fatta bene, di cui siamo davvero tanto tanto orgogliosi. Quindi consigliabilissimo non solo ai rocchiani, a tutti praticamente. No, guarda, è strepitoso. Tu l'hai letto, vero? Spero. Sì, sì, è proprio una cosa. Ho letto. Guarda, io adesso ti apro a caso, vediamo questo che capitolo è. Questo è il capitolo quinto e inizia Claudio. Non sono neanche 60 giorni che ci conosciamo, in questa storia a tratti stupefacenti. Siamo stati a scrivere e parlare, camminare insieme, cucinare, leggere, fare la spesa, guidare nel traffico in campagna, avvicinarci cauti, toccarci proprio, guardare la TV, rendicontare anni di vita, le agende degli amori a poco, l'ultima storia, quella mezza in atto, l'amore ai tempi del tuo nome, prima, durante, cose dette o che cosa a chi e anche non, riscontri dagli amici, foto virtuali, e poi continua così e chiude il suo intervento dicendo: tutte le stelle sopra, questo cielo, domani piove, quando, quale treno, vieni, non vieni, quell'aereo a terra? E questo è nulla, solo qualche traccia. Noi abbiamo certo detto altro in mille ore. Dettaglio adesso come nota aggiunta, roba di nulla, giusto per capire. Noi abbiamo ancora da incontrarci, stella, piccola dolce amica d'avventura. Bene. È proprio straordinario. Quindi un omaggio a Claudio Rocchi. Per concludere, Susanna, sì. Io ho scelto un pezzo di Claudio. La sì, tua quale? Prima luna, che trovo meraviglioso. Beh, famosissimo, esattamente. Un duetto con una vocalist, Rossi si chiamava, dal primo disco. Sì, che era una disco. Sua compagna di scuola, di scuola, credo che fosse la sorella di Gad Lerner. Ah, vedi? Non sono sicurissima, ma mi pare di ricordare questa cosa. Un pezzo cosa. Meraviglioso, per concludere in bellezza questa conversazione. Bene, ottimo. Senti, ricordiamo il titolo. Certo, Il mio volo magico, con Claudio Rocchi, di Susanna Schimperna, editrice Campi di Carta. Grazie Susanna. Grazie a voi.